Zero Gravity com'è nato? Non hai lacci, quindi non c'è... Otto anni di studio. Cioè, sì. otto anni di studio per togliere i lacci, no? No, e non è una cosa così banale togliere dei lacci, visto e considerato che nell'immaginario collettivo la scarpa si chiude coi lacci, poi è arrivato anche il velto, ma nel calcio soprattutto, cioè l'immagine del calciatore chinato a terra che si stringe i lacci per rendere... Per perdere tempo. Per rendere più intima la scarpa al suo piede, è un immaginario collettivo. Ma io direi che sì, 8 anni sono stati più che sufficienti per sviluppare un prodotto che si chiama Zero Gravity, perché è leggerissimo, e che soprattutto oggi è calzabile in tutti i tipi di piede, quindi coloro che hanno il piede col collo alto, che difficilmente calzerebbero una scarpa di questo tipo, invece oggi riescono a farlo. Soprattutto non è una ciabatta, perché tanti pensano che poi una scarpa senza lacci non stia nel piede. Balla, no? Balla al piede, invece non è vero. No, anzi, calzata millimetrica. Assolutamente, noi abbiamo misurato tutte le forze che il piede sviluppa durante un'attività calcistica, e quindi sia i cambi di direzioni nella corsa, quindi forze di tipo verticale, forze tangenziali, quindi laterali. La domanda è: questo tacchetto rotante cosa serve? Cos'è il tacchetto rotante? Il tacchetto rotante sarà parte integrante anche di questa nuova scarpa che voi avete citato per i mondiali del 2010 in Sudafrica. Serve ad evitare attriti inutili tra piede e terreno. L'interazione piede umano, scarpa e terreno è un'interazione importante per eliminare degli infortuni tipici del calcio o degli sport con cambi di direzione.